Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, buonasera e bentornati a Smart City, intelligenza artificiale e mondo delle assicurazioni. Questo è il tema di cui ci vogliamo occupare questa sera, puntata del venerdì come sempre dedicata al tema dell'intelligenza artificiale. Ebbene, il mondo assicurativo ha sempre avuto, diciamo, un rapporto speciale con il mondo della statistica e con quello delle previsioni, perché ovviamente riuscire a stimare i rischi, per esempio, che corrono gli assicurati significa riuscire a tenere sotto il controllo un bilancio appunto di una assicurazione. E abbiamo anche spesso ormai fatto riferimento in questi nostri appuntamenti del venerdì al fatto che l'intelligenza artificiale introduce, naturalmente su base statistica, una certa capacità di prevedere il futuro, tanto che abbiamo parlato di società oracolare. E quindi questo è senza dubbio molto rilevante proprio per il mondo assicurativo, e noi ne parliamo con Piero Poccianti, presidente dell'Associazione Italiana Intelligenza Artificiale, un lungo passato, una lunga carriera nel mondo finanziario. Bentornato Piero Poccianti. Buonasera, buonasera a voi. Allora, cerchiamo di capire che cosa quindi cambierà nel mondo assicurativo. Oggi le assicurazioni offrono appunto, come dire, un'assicurazione a fronte di un rischio che uno corre. Che cosa potrebbe cambiare in futuro con l'avvento dell'intelligenza artificiale, che ricordiamo, no, da un lato porta con sé questa capacità di prevedere il futuro su base statistica e dall'altro consente di tenere conto di una complessità molto maggiore che in passato? Allora, sicuramente l'aspetto previsionale sarà un aspetto importante. L'altro aspetto è che le assicurazioni potrebbero avvantaggiarsi di questo per cercare di evitare i rischi, cioè tutto l'Internet of Things, i dati che otteniamo sempre di più possono servire da una parte a giudicare il rischio meglio, ma dall'altra parte a evitare il rischio e quindi cercare di evitare che succeda un disastro. Quindi un domani le assicurazioni dovrebbero offrire dei servizi di prevenzione, stiamo esatto. Dicendo questo, per esempio? Per esempio pensiamo sulle malattie, o certo. Pensiamo sulla rottura della macchina, o pensiamo sulla rottura di un ponte, che ormai è una cosa che ci colpisce. Che succede spesso. Insomma, corsi di stile di guida per non andare a schiantarsi, corsi di stile alimentare, adesso no, per esempio per sì. Non ammalarsi. Sì, ma tenete anche conto che una volta dentro le grandi aziende c'era degli operai anziani che erano capaci di riconoscere dal motore, che dal rumore, che una bronzina si stava rompendo. Certo. Ecco, noi oggi possiamo fare delle macchine di questo genere, quindi evitare che si fermi la macchina e cambiare la bronzina prima. Certo, oppure a identificare situazioni di pericolo dentro casa, no? Insomma, l'idea che le assicurazioni venderanno prevenzione anziché risarcimenti, questo è un po' lo scenario che potrebbe verificarsi. Piero Poccianti, le assicurazioni però si reggono anche su un altro paradigma molto importante, che è quello solidaristico, cioè siccome non sappiamo chi domani morirà di infarto, diciamo così, 10 persone si assicurano e 9 pagheranno per quello che poverino si becca l'infarto. Non c'è il rischio che questo paradigma, se diventiamo bravi a calcolare i rischi individuali, salti? Allora, possono succedere due cose: o io non assicuro quello che sospetto che poi avrà un infarto, o io fornisco un servizio a quello che potrebbe avere l'infarto per evitare che lui lo abbia. Torniamo un po' quindi al concetto precedente. Sì, e uno è uno scenario negativo, perché significa poi alla fine che l'assicurazione non fa veramente il suo mestiere. Certo. L'altro è uno scenario estremamente positivo, perché evita il danno e quindi fornisce un servizio anche solidaristico da questo punto di vista, no? Certo, sì. Poi dipende chi paga, ecco, questo servizio anche di prevenzione, perché torniamo lì, se lo paga sempre solo quello che corre il rischio, è saltato il principio solidaristico. È vero che i rischi sono vari e ognuno ha i suoi. Poccianti, ci sono altri rischi dal punto di vista dell'utente che potrebbero derivare, insomma, dalla iniezione di forti quantitativi di intelligenza artificiale nel mondo assicurativo? Uno dei rischi è che questi sistemi di previsione si basano su grandi mole di dati, e il rischio è che, basandosi sui dati, le assicurazioni assicurino quello che è normale e anche la più piccola anomalia esca fuori da questo concetto di normalità e non venga considerata. Insomma, il rischio di venire così scartati o discriminati perché non si corrisponde a una statistica media, ma sia un po' atipici. Questo, esatto. Questo potrebbe essere un rischio concreto. Una delle cose, prima di lasciarci, che volevo dire è che l'intelligenza artificiale è una tecnologia dichiarativa, ovvero noi dobbiamo descrivere il contesto, descrivere gli obiettivi e poi l'intelligenza artificiale crea gli algoritmi. Questo trasforma tanti tipi di lavoro, come abbiamo detto prima per le assicurazioni, sposta da coprire il rischio a evitare il rischio, per esempio. Per esempio dico che ho freddo piuttosto che dire alzare la temperatura, di alzare la temperatura a un sistema domotico. Sarà lui che capisce cosa deve fare. Esatto. Questo è un po' un concetto generale. Va bene, allora grazie Piero Poccianti. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, cari ascoltatori. Appuntamento come sempre a lunedì. Buon fine settimana.